te l'hai sentita del Santa Pola, che la fa, cosa fa? La guia più timida, dica il della sua fiola, della sua neuda, mia neuda, sonora. La nonna è morta, il pupale è preso per un grave formento. La fa andare alla chiusa? Quel mi ricordo di mia. No, la tenia in braccio. La tenia in braccio, ecco. La tenia in braccio. Ecco, riferito a me, Gianluigi Arcani, invece Renzo il dis. A posto della nonna, nella mamma le morta. La mamma le morta, tu pare in presù per in grave formentù. E dove andai in ain, pupà? Così, mamma, allora, quando si fa giugare più te, se dì? Questo l'andata del boss, sì. Questo la tussa, questo la suga. Questo da fare la panata e il mio lì la mangiava. Mangiava a Carlo. Ecco la loro cina. Aspetta, stai da ora. Tiene sino a orta che era una piccina, piccinina, era spassata il suo camarino. E la catata in bel centesimi. La spassava una catanata di centesimi. La spassa a mano una catanata e dopo lo dice, ma cosa fai mamma con chi tre centesimi? E lo dice, andrei al mercato a comprare tre bei porcelli. Così che mettiamo in ancora il più bene. Più magro, più grasso e che l'altro il culo. Allora sai che dice? No, ma un punto. Prima che dischi che i crumpa te tre porcelli, dopo al PT la figlia domanda, ma come si chiama l'ultimo, cioè che dice, e dopo il PT la ripete, no? Ma la resta la c'è. Oddio che rabbia, ma quando me la fa? La te la fa, però, cioè, oddio. Ora ma fa, e quando Il fuoco formale per la caldera. Che vuol dire? Vuol dire che se mi interessa fa una roba... Il fuoco formale per la caldera. E chi che te la dà a caldera? Bertos. Dopo. Pegger compagno della notte. Sì. Non è modo di dire. Adesso si impervo o si impom. Cambiare discorsi. Se, sì. La pulenta che la pari in Fidec. E chi che la sempre il Bertos? Mi madre. Ah, tua madre. Ma la disse spesso. La pulenta che la pari in Fidec, cioè che le mola. Sì, mola, buona, liscia. Ah, buona. Sì, senza sbruffadei, ecco. Senza sbruffadei. Tiras la sapo sui pe, sì. La orende crema che mangiai suda e la orende crema. Chi te la vacca a lei? Mi fa. Ah, tua madre. E te lo disse a me nonna, quando il voto era sera, che lì la resta a lei, te disse, allora... Dei compagni la orende crema. Che mangiai sida? Che mangiai sida, lavorai crema. Ah, val più tanto una branca di stupa che una duna malpetenata. Che di che calma? Bertos, quella che la disse. E cos'è il di? Sì. Cioè che una duna malpetenata le brutta sto male. Ah. Ecco. E dove si mi appegnettate? Ma chi altro ti sei bello? Così. Non si usava compagno dello capellasso? No, così. La sei usata compagno dell'oca pelà. Cioè, cos'è lì? Una quanta hanno disgrazio, se no a valgar dispiacevole la. Ah, è bella usata. Compagno dell'oca, la prima volta è che noi se il siga quanti la pela. La pela. Ma dopo bisogna che il si usa, insomma, bisogna che il tase. Se... Suga il marco il cucere, cioè fa una pelle. Tira l'acqua al samulì. Samulì? L'acqua al samulì, no? Lo chiedi a tre. Allora, E sei parla, che dice, si poteva dire, il vostro tenore vista pure guadagni, io gli faccio di momento con stipendio fisso, e mezzo intende era che mi dica pure, ormai le tiene 50-60 mila franca al mese. E lui gli riscarra il mio figlio, dice, ma pensate che mia figlia gli è gnazzi, gli spettò la carta igienica. Se più il capitolo del talle, c'è mia per cosa dire, cassa le mie sette, in quanto non mi rai della carta igienica, c'è questa immaginata per il re, e ora il bocchino era il scusantino. Cavuno! Chi lavora che ha una camisa, chi lavora mia che ha una donna. Questa che te l'ha sentita ma... Bella, da chi quella? Del papà. Quella è la dispersa di me. Siccome ogni tanto magari c'è ben bel voto e se allora me li si sente. Dopo, val più tanto nacque la sosta giù che ne carebe de re farao. Le Bertosche. Ecco, cosa vuol dire? Sì, che nacque la sosta giù, se mi aspettate di me, ecco, carebe de re farao, te, una favolosa. E poi da seno coi barbe. Cioè vedine gas, perché i barbi di pesche vivono nel fondo dell'acqua e se. Crede Bertosso per caldo? Sì, Bertosso per caldo un po' pescaggio, fa una stella. Dopo basta. Questo te lo do a Fausto Mascacci. Fausto Mascacci. Cos'era? Com'è cos'è? Da che parte venite, mia buona sorella? Siete sola o avete famiglia? Confessore, son tutta passita come un cavallo perduto la briglia. Maledetta ste sottana, figlia vieni, vieni qua. Confessore, suona la campana, in chiesa vado a predicare. Cioè lui a un certo punto voleva abbandonare la sottana per andare con quella lei. Invece lei la detto, no, devo suonare la tua campana e va a predicare in chiesa. Ecco, se la finisla. E dopo che ne dia? E dopo questa che è? Rondinella pellegrina, ecco, che ti posi sul verone. Stai cantando, insomma, se la stai o vai, cantando ogni mattina la tua flebile canzone. Non ti commuove in tua favella, pellegrina rondinella? Basta. Rondinella, pellegrina. No, lui la cantava mia. Che riposi sul balcone, eccetera. E qua è Tommaso Grossi, questa. Insomma, e dopo cosa viene? Ah, dopo questa, che è quella. La domenica andando l'ho messa, niente. No, prima di me, chi ce l'ha? Chi che te la dà la crema? Ma questa che è la è anche la più comune, perché è quella che me la dallina. Ah, è molto conforme a quella della Laura, stessa è quella della Monti, Maria Monti. Ecco, allora pure l'esina. La domenica andando alla messa, accompagnata dai miei amatori, mi sorpresero i miei genitori, monachella mi fecero andare. Uscì sì, io non ho la che ti trovo. Giovanotti piangete piangete, han tagliato i miei lunghi capelli, erano ricci, erano biondi, erano belli, e dopo sono mio pezzo. Grazie, mio pezzo. Ecco. Anche l'altra passa al poi, ti chiede l'esempio. Come passa al poi? Parole. Allora la te la dita bici, no? Bici Tonani, sì. Bici Tonani che la so a Calaria, no? Sì. Ecco. Che dopo mi sarete di bene. Il cavaliere di gran valore, si volta la pagina e si vede il fiore. Il fiore che si lascia odorare, si volta la pagina e si vede il mare. Nel mare che nuotano i pesci, si volta la pagina e si vedono essi. Essi che partono per la Lombardia, si volta la pagina e si vede Lucia. Lucia che fila il lino, si volta la pagina e si vede Arlecchino. Arlecchino che monta a cavallo, si volta la pagina e si vede il gallo. Il gallo che canta sera e mattina, si volta la pagina e si vede la gallina. La gallina che fa le uova. Si volta la pagina, si vede l'uomo. L'uomo che zappa la terra, si volta la pagina, si vede la guerra. La guerra che ammazza la gente, si volta la pagina e non si vede più niente. Ecco lei, i gela doda, quando era suena, i neut de mascol, de bigio mascol, chi sta a Saronno, figli dell'avvocato Petra Brebbia di Saronno. Ah, ti che catacola chi sia tua sorella che le gade, le robe diverse. Sì, lei per sapere. Adesso mi è se l'inizio è questo o se che è una roba prima, un'immagine precedente. Insomma. Il villano che zappa la terra, volta la carta e trova la guerra. Alla guerra ci sono i soldati, senti che sapavida. Volta la carta e trova gli ammalati. Gli ammalati che soffrono dolore, volta la carta e trova il dottore. Il dottore che fa la ricetta, volta la carta e trova l'oletta. La Loletta, Ma la campo d'aria, la loletta che fila il lino, volta la carta e trova Arlecchino. Che senso, ma? Arlecchino che fa lo sgambetto, volta la carta e trova il galletto. Il galletto che canta forte, volta la carta e trova le porte. Alle porte c'è tanta gente, e volta la carta e trova più niente. Ecco, basta. E dove l'ha imparata allora? Quella è sua mia. Vedete che potreste mandare stasera, ecco. Aspetta, ma l'ha imparata a scuola? Sempre a dell'asilo. Ah, no, no. Com'era? La maestra Angelini, veramente sì, sono stata una vecchia. Spazza, ma la gamba la sua aria, lei la sa. Spazza cammino, ho freddo e fame e son poverino. In riva al lago dove son nato, la mamma mia ho abbandonato e tutto il giorno vo intorno e grido spazza cammino, ecco, un del Cesare, nel 1906. E dopo c'è Tunani la tradotta del Barbatus, no? Sì, la canzone del Barbatus. Questi dischi, insomma, della Stala, la Disia. Ecco. Ma la Disia la cantai? La Disia. La Disia, proprio la Disia. Perché anche a Menona de Mariano, quando era lei, la Sia. La canzone del Barbatus, neanche il fig nelle lanus, nia lanus nelle il fig, nia il parent nelle l'amic, nia l'amic nelle il parent, nia la terra nelle il forment. Gna il formen nella la terra, gna la pas nella la guerra, gna la guerra nella la pas, gna la stupa nella il bombas, gna il bombas nella la stupa, gna anche il fus nella la rucca nella il fus, gna la finestra nella il bus, gna il bus nella la finestra, gna anche il pa nella menestra, gna la menestra nella il pa, gna anche nella il duma, gna duma nella inque, gna la vacca nella imbe, gna imbe nella na vacca. Gna il badil nella sapa, nella sapa nella il badil e domani il mese d'aprile. Però sì, come una pezza. Me ne hai mai sentita? No. L'ho sentita la prima volta della ora, come si chiama, di bici, ma dopo con Menuno la disse. Dice che si chiamava? Allora, com'era Nina Nana? No, stella se distraente, senza tirare il fiato. E se chiedi, stella stellata, in cielo tu sei nata, sono nata anch'io, fammi sognare l'amor mio. Tre volte senza tirare il fiato. E cosa succede? Allora se sei insomma sono rosso, ma se più bene che si porti da lui. E dopo stellata, com'era quella cosa? Viva mia bella luna, tu ti sei bianca e messo bruno, tu ti sei vera e messo piena, tu sei il gorso rosso, ma se sei distraente, allora passa il gorso. Ah, passa il gorso. Ecco. E quella son bella, son bianca. Ah, dopo questo non devi niente, Gianni lo sarò, eh? Son bella, son bianca e son pulita, e per servire a tu io perdo la vita. Te per sé, perché ho detto ai fieri, ho detto guata nella vita. È una vita per salire, eh? Ma io lo merda. E dopo così Nina Nanna mi più ti? Anche lei, ma per tutti, mi sa. Non è quella propria. L'estate il capellier che gaule in la guerra, quanto il cataran per strada, sbatteran per terra. Ma l'aria com'era? No? Quando il capellier... No, no. L'estate il capellier che gaule in la guerra. Vediamo che sapesse. Ma non lo vuole cantare lì. E quando il cataran per strada, sbatteran per terra, bim. Bum bam bam bam bam bam bam bam, che c'era che idea? No, assomiglia, assomiglia. Sei di parole insomma, sì. Là la assomiglia. Cosa lei, non di lei, eh? Mia lì. Sì. Cos'è? C'ha la candela. Sono ah, candela. Sono pulita per servire a tutto, per servire a chiato e perdo la vita. Vita, sì. Allora.